coppe tra gli eccessi. Oh oh oh oh, per la natura sono spesso, quando adesso sono cielo, lo stesso. Oh oh oh, dimmi cosa fai, sentendo solo questa vibra, oh te ne vai. Ehi ehi, stanco di ricorrere il sogno e poi sentire i miei lamenti che lo seguono, no, credermi assicuro in una stanza vuota. Passare il tempo al bar steso sul divano, che un giorno mi permetterà di dire tanto noi c'eravamo. Non parlo di interesse, no, questa è passione, quella che intriga si sveglia in ogni discussione, che ti tiene ad occhi aperti in piena notte senza esclusione, che ti spinge a continuare ogni volta dopo un'altra delusione. Capisci di cosa sto parlando, oppure fai lo scettico, ti stai annoiando. Se sai di cosa parlo, la vibrazione ci unisce, non puoi negarlo. Spesso mi ha ragione, vieni a celebrarlo. Ricerca questo suono, cosa aspetti a farlo? Abbiamo incastri, magheggi, maestri, pilastri, oh! Abbiamo i gaggi convinti e creiamo i disastri. Contiamo schiere di talenti nascosti, ancora sotto per chi vecchi non li smollano sti posti. Andiamo ancora avanti tra i più nobili intenti, esperimenti, vittorie e fallimenti. Dai, noi che siamo la gente dell'hip-hop con le dovute differenze. Dai, che lo sappiamo delle nostre divergenze, diverse esigenze. Hey, hey, hey, perché questo è ciò che siamo, dai, non ce lo inventiamo. È un rapporto strano, ma sta merda io la amo. Fra loro i polemici col senno del poi. Oh poi, quelli che analizzano il termine b-boy. Mi piace giocarmela d'outsider, stesso cielo, stessa aria, ma mi sento uno street fighter. Vivo ai confini e per la gente sono un banger. E questa sera giù di headbanger. Stoppa la cultura, questa cosa la si vende. Stringo la cintura, c'ho idea quanto si spende. Hey, restiamo stronzi, incazzati, malati, atteggiati. Siamo fratelli in questa plaza, ma anche tori scatenati. Odiati, invidiati, primi della classe, primi tra le scomparse. Amo questa gente, i nostri modi esagerati. Oh oh oh oh, generazione di fenomeni. Tutti pop boys e gli nomini. Oh oh oh oh, tutti maniaci depressi. In giro per il pop tra gli eccessi. Oh oh oh oh, per la natura sono spesso, quando adesso sono cielo, lo stesso. Oh oh oh, dimmi cosa fai, sentendo su questa vibra, oh te ne vai. Oh oh oh oh, generazione di fenomeni. Tutti pop boys e gli nomini. Oh oh oh oh, tutti maniaci depressi. In giro per il pop tra gli eccessi. Oh oh. Sono spesso, quando adesso sono cielo, lo stesso. Oh.